into the groove, boy, you've got to prove your love to me, yeah. Eccoci di nuovo qua, cari amici, benvenuti, bentornati, bentrovati di nuovo nel nostro salotto qua ad Into the Groove, il salotto buono di Radio 23. Poi buono è il salotto, ci hanno detto magari è un salotto così esclusivo che non si può entrare. Non è affatto vero, il nostro è un salotto assolutamente inclusivo e niente affatto esclusivo, quindi mettetevi comodi come settimana scorsa. Questa è la seconda puntata, il secondo viaggio che facciamo. Accomodatevi tranquillamente sulle poltroncine, come sapete, se volete prendere le posti dell'altra volta, io non ho nulla in contrario, o se magari siete più abitudinari, o se invece preferite cambiare di posto perché non vedete bene la lavagna, insomma, sentitevi liberi di fare come se foste nella vostra casa. Intanto io ammetto subito un problema: oggi mi sudano un po' le mani, non riesco quasi a tenere in mano le bacchette, perché si parla di tre mostri, di tre giganti, di tre monumenti del rock, di tre batteristi che sono stati senza ombra di dubbio fra i più influenti, se non i più influenti, in tutta la storia del rock, che insomma, da quando è nato a oggi. Ecco, io sentite balbetto anche un pochino, perché quando si vanno a toccare certi argomenti e certi personaggi, il batterista che in me freme, perché desidera, vorrebbe, ma purtroppo, ahimè, le mie capacità non mi consentono di... Però insomma, non voglio neanche tenere tanto la suspense, perché poi non sono capace a tenermi buone le sorprese, quindi vi dico subito di chi andiamo a parlare. Andiamo a parlare dei Led Zeppelin, e quindi naturalmente di John Bonham. Andiamo a parlare dei Deep Purple, e quindi naturalmente di Ian Paice. E andiamo a parlare degli Who, e naturalmente di Keith Moon. Questi tre nomi sono quelli che hanno rappresentato tre stelle polari, tre punti di riferimento, tre fonti di ispirazione per una enormità di generazioni di batteristi a venire. Keith Moon è stato anche di ispirazione per gli altri due, volendo, perché è leggermente precursore, ma insomma non stiamo lì a guardare troppo le date, parliamo, come sapete, di stili, di impostazioni, di modalità musicali. Allora cominciamo subito dal primo, il più grande secondo me, e non solo secondo me, John Bonham dei Led Zeppelin. John Bonham si presenta al mondo nel 1969, e in questo caso le date sono importanti, con il primo disco dei Led Zeppelin, proprio Led Zeppelin 1 si intitola, e la prima traccia del primo disco dei Led Zeppelin è già una rivoluzione nel modo di suonare la batteria. Per quale motivo? Perché arriva questo ragazzone, figlio di un carpentiere, quindi se vogliamo abituato in qualche maniera a martellare, dietro i tamburi è una tempesta, è un ciclone, è una forza della natura, perché riesce a tirar fuori un suono monumentale dalla sua batteria, e lo fa con uno stile, con una tecnica, con un approccio davvero appassionato nei confronti dei tamburi proprio, perché lui ama il suono dei tamburi, ha studiato da autodidatta, imitando i grandi batteristi, i grandi jazzisti naturalmente, che sono quelli che hanno poi portato alla ribalta la batteria, che l'hanno resa uno strumento, come dire, di primo piano all'interno delle formazioni musicali. E lui che cosa fa? Sviluppa un suo modo, una sua tecnica di suonare, quindi di colpire con la bacchetta sulle pelli, una roba che non ha mai in qualche modo rivelato, ha sempre detto: io ho il mio modo di suonare, e grazie a quel modo di suonare lui tirava fuori il suono, quel suono, quello dei Led Zeppelin. Inoltre, che cosa aveva John Bonham di particolarissimo? Beh, tanto un caratteraccio, questo forse lo sapete già, era uno che amava indulgere, diciamo, al bicchiere, e quando beveva diventava intrattabile. Fra l'altro era anche un cristone di uomo, e quindi averci a discutere non era mai una cosa piacevole. Addirittura c'è un aneddoto in cui diceva, vabbè, faccio un po' di gossip, c'era Alex Van Halen che lo incontra in camerino e va per stringergli la mano, e, come dire, saluto e riverisco il maestro, e lui per tutta risposta gli tira un pugno nella faccia, così, tanto perché gli ha detto grazie, mi piace come suoni, pam, un cazzotto nei denti, e viva John Bonham. Ma al netto delle sue intemperanze caratteriali, stiamo parlando di un batterista che ha veramente segnato e cambiato il modo di suonare. Io ho preparato, visto che l'altra volta ho parlato molto e forse non riesco mai a spiegarmi poi benissimo, dei piccoli estratti musicali. Allora, vi faccio sentire, prima di farvi ascoltare il brano che è Good Times, Bad Times, un piccolo estratto proprio da quel disco lì. Vi faccio sentire quando, in quale momento, secondo me, la batteria cambia il suo modo di essere. Si parla dell'utilizzo della cassa. C'è Bonham porta questo modo di suonare le terzine con la cassa. Le terzine sono tre note in una battuta. Volendo semplificare, pensate alle canzoni degli anni 60, no? Tipo Sapore di sale, sono quei ritmi ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, però lui la fa stravelocemente e con una fluidità e una musicalità devastanti. Inserisce queste terzine molto molto veloci con la cassa, prova a farvele sentire, si sentono subito praticamente poco dopo l'introduzione. Quando il cantato si ferma si sente questa figura ritmica. Io ho provato a isolarla, vediamo un po', vediamo se riesco a farvela sentire. Arriva adesso, è quando canta, senti. La ripete adesso, tutto ciao, tutto ciao, tutto ciao, senti. Non so se si riesce a sentirla fino in fondo questa cosa qua, no? Fermo, John, non esagerare. Non so se si è riusciti a coglierla. Comunque è un piccolo, come dire, un piccolo break, un piccolo fill che lui infila dentro. E questa figura di cassa, che è per me pazzesca, io non riesco a farla, per esempio, con questa eleganza, con l'eleganza che ci mette lui. Insomma, lui arriva e porta questo modo di suonare nel rock. Poi parliamo ancora di qualche altra particolarità, ma non voglio tenervi troppo a sentire la mia voce, ma voglio farvi sentire piuttosto le note meravigliose di questa canzone. Allora adesso ve la rimetto dall'inizio, ce l'ascoltiamo tutta e ascoltiamo il più grande batterista rock di sempre, John Bonzo Bonham, Good Times, Bad Times. grande, grandissimo, immenso, inarrivabile John Bonham. Lui perché poi mi piace tantissimo? Perché innanzitutto quando racconta della sua vita lui dice di aver ricevuto in dono la batteria all'età, vado a memoria, insomma intorno ai 10 anni, gli regalano questa batteria usata e lui impazzisce perché c'era della ruggine sulle meccaniche. E quindi inizia, la restaura, la rimette a posto e inizia a dire: io non capisco, non sopporto i musicisti che non si prendono cura del proprio strumento, andrebbero presi a calci, ecco, tanto per dire. Io sono d'accordo con lui, gli strumenti vanno trattati bene. Comunque, al netto di questo, che cosa succede ancora? Che Bonham dice: a me non interessa tanto la tecnica batteristica, perché se tu sei capace di fare dei feel pazzeschi, dei numeri di alta scuola, come dire, tecnicamente complessi, alla gente non interessa tanto, alla gente interessa sapere dove metti il cuore in qualche modo, no? Quindi fammi sentire, non importa che tu sappia fare le cose tecniche, perché altrimenti sarai uguale ad altri 100 batteristi. Sii te stesso, sviluppa il tuo personale drumming, metti feeling in quello che fai, questo è importante. E questa è una grande, grandissima lezione. Poi, detta così sembra facile, in realtà Bonham ha una tecnica batteristica straordinaria, prodigiosa, l'avete sentito in questo primo pezzo come si presenta al mondo, c'è da levarsi il cappello, mettersi in ginocchio e ringraziare Dio di averci concesso la possibilità di ascoltare un musicista di questo calibro. Ma al di là di queste mie vaneggiamenti, diciamo, di queste mie piccole digressioni amorose nei confronti, ripeto, per me del più grande batterista rock di sempre, che cosa c'è di particolare da sottolineare? Dunque, innanzitutto, uno scarso uso dei piatti. Bonham ne usa pochissimi nel suo set. Quelli che sentite lui li usa o per aprire questi ritmi dandogli veramente corpo, potenza, oppure li usa giusto per aprire o chiudere dei fill. I fill sono quelle che in italiano chiamiamo poi le rullate, no? Ma lui ha un batterismo, un drumming, molto molto quadrato in qualche modo, no? È solido. Tu quando suoni senti sempre la batteria di Bonham presente nelle battute che contano. Non è un batterista che ti lascia da solo, è un batterista che ti sostiene. Poi lo fa alla grande, perché appunto all'interno di questo suo modo di suonare bello presente riesce a inserire dei fill, questi stacchi, questi passaggi estremamente tecnici ma anche molto molto musicali. E poi questo suo suono appunto rotondo, importante, è vero, se guardate i video o le foto, Bonham usa sempre una batteria grande, di dimensioni, proprio i tamburi, la cassa sono grandi, la cassa standard di solito è un 22 pollici di diametro, Bonham usava una 26, no? Ha questi tom enormi, timpani enormi. Perché gli piaceva questo suono monumentale, appunto. Si dice che foderasse l'interno dei tamburi con la carta stagnola per avere ancora più potenza, perché, come dire, mettendo uno strato di metallo il suono scorre via più velocemente, no? È una legge fisica. E lui foderava i tamburi con questa carta stagnola. Però in realtà, come ho detto prima, il suo suono veniva fondamentalmente dal modo che aveva lui di suonare. E questa è un'altra di quelle cose che io dico sempre: lo strumento è fondamentale, è importantissima la qualità dello strumento, è importante la qualità della costruzione dello strumento, quindi i materiali e l'artigiano che l'ha costruito, ma poi di base, ragazzi, se non c'è il manico, non c'è il manico. Ugualmente, come si può dire, per un pilota di Formula 1, no? Io ti posso dare la macchina migliore del mondo, ma se non la sai portare, non la porterai mai. Viceversa, se tu sei un grande pilota, anche con una macchina meno performante, puoi farmi vedere i sorci verdi. Questo fondamentalmente accade anche nella musica. Allora ci ascoltiamo il secondo pezzo che ho scelto per far sentire il drumming di John Bonham, che è un pezzo molto particolare, perché appunto Bonham è famoso per queste sue ritmiche importanti, potenti, e io invece ne ho scelta una che è molto, come dire, poco rock e più delicata, eh? Intanto, cosa ho detto prima? Che i batteristi di cui parleremo sono importanti perché sono stati in qualche modo influenti, no? Hanno ispirato altri. C'è un pezzo che io adoro, e non è degli Zeppelin, ma è un pezzo dei Toto. Ogni volta che posso lo metto, lo faccio ascoltare, perché ritengo che sia, da un punto di vista batteristico, come dire, un po' il sacro graal. E sfido qualsiasi batterista a dirmi che non ha mai provato ad eseguire almeno l'intro di questa canzone qua. State attenti che la riconoscerete immediatamente. 1, 2, 3. Se eccetera eccetera, Roxana, Roxana, perfetto, no? Rosanna dei Toto, Roxana dei Toto. Alla batteria dei Toto c'è Jeff Porcaro, detto Mr. Groove, batterista di cui parleremo diffusamente e ampiamente nelle prossime puntate, perché chiaramente non può essere liquidato così, con due parole. Anche lui è un elemento di spicco assoluto nel panorama batteristico, di grande ispirazione per tutti. Ma a sua volta, cosa dice Jeff Porcaro di questo groove famosissimo, di questo ritmo straordinario? Dice... Lo dice proprio a Jason Bonham, figlio di cotanto padre, e qua altra postilla, scusate se io divago ogni tanto, mi chiameranno il dottor Divago, però va detto, figli d'arte fate un altro mestiere, Jason Bonham è un grandissimo batterista, ma ahimè davanti a un gigante come tuo padre, ma che devi fare, lascia perdere, comunque... Ha suonato alla reunion degli Zeppelin. Una nota importante da dire: quando John Bonham passa a miglior vita, gli Zeppelin smettono di suonare. E questa è una cosa importantissima, una cosa anche abbastanza rara all'interno delle band rock di spessore mondiale. Ma perché un batterista volendo si sostituisce, ma tale era la maglia, ma tale era il feeling che si era creato negli Zeppelin, che senza John Bonham non stava in piedi più niente. Il figlio Jason suona alla reunion, comunque incontra, ha la fortuna di incontrare Jeff Porcaro e gli dice: Jeff, il groove che tu fai su Rosanna è pazzesco, per me è di grande ispirazione. E lui dice: mi fa piacere sentirtelo dire, perché io a mia volta l'ho praticamente rubato a quel genio di tuo padre. Allora vi faccio sentire da dove è nato il groove di Rosanna, ed è nato da un pezzo bellissimo che si intitola Fool in the Rain. Naturalmente è leggermente più lento, però ditemi se non si somigliano un bel po'. E poi a metà del brano ci sarà una bella variazione e una bella sorpresa. Insomma, dopo lo commentiamo ancora. Fool in the Rain. E beh, un pochino si somiglia, eh? Bye. E che capolavoro non è? Che capolavoro non è? Allora, avete sentito il pezzo di samba? Come un batterista rock suona un samba, come suona un ritmo latino, no? Con potenza ma anche con leggerezza. Quindi per tutti voi ho scelto questo pezzo apposta perché siamo abituati a sentire le canzoni degli Zeppelin, a sentire John Bonham che suona, che ne so, in Wallota Love o in Immigrant Song o che ne so, Communication Breakdown, no? E invece ci ascoltiamo lui che suona così, leggero come una farfalla, questo shuffle, questo tipo di ritmo si chiama shuffle ed è delizioso, preziosissimo, da imparare perché si sentono molto nettamente le ghost notes. Cosa sono le ghost notes? Ecco, le ghost notes, attenzione perché è una cosa abbastanza importante. Vediamo se riesco a spiegarvelo. Dunque, regia, grazie per questo momento ancora una volta quarcheggiante. Allora, le ghost sono delle piccole note che si eseguono sul rullante in maniera leggerissima, diciamo, praticamente appena sfiorando la pelle. Quindi assieme al colpo forte di rullante, lo stock, subito dopo si fanno seguire o precedere questi piccoli colpettini impercettibili che servono a dare veramente groove, a dare ritmo, no? È quello che ti fa muovere, perché siamo capaci tutti a dare un, due, un, due, ma il bravo batterista è quello che fa un e due e un e due. E sono questi sfioramenti, questi accarezzamenti della bacchetta sulla pelle che creano, anche se non è facilmente ascoltabile, creano quella sensazione di movimento, di groove, che ci fanno prendere bene, che ci fanno muovere la testa, e le fanno i più bravi, le fanno sempre, anche nel metal si sentono, eh? Ok, detto questo, torniamo al nostro approccio musicale ai batteristi, grazie regia per il momento quark, e torniamo a parlare di grandi artisti. Dunque, salutiamo per un momento John Bonham e andiamo a parlare di Ian Paice, altro grandissimo, eccellentissimo musicista. Ian Paice naturalmente suona con i Deep Purple. Ho detto prima che gli Zeppelin, quando muore John Bonham, si sciolgono praticamente, interrompono la loro carriera, e i Deep Purple invece hanno conservato come unico musicista sempre costante proprio il batterista Ian Paice. Quindi c'è, come dire, una specie di contrappasso divertente fra questi due grandissimi maestri della batteria. Paice è sicuramente un grandissimo tecnico, è un musicista, un batterista che ha una tecnica prodigiosa sul rullante, conosce perfettamente ogni tipo di rudimento, ogni tipo di, si chiama, diteggiatura anche nella batteria, insomma, quindi è capacissimo di creare delle figure ritmiche, soprattutto dei file, delle rullate incredibilmente meravigliose, precise, veloci e funzionali al brano. Naturalmente Ian Paice è un ciclone come John Bonham, è un batterista prepotente, nel senso che non si può ignorarlo, la batteria nei Deep Purple è essenziale, è fondamentale. Naturalmente il suo ritmo più famoso è quello di Smoke on the Water, no? Che è anche, se vuoi, piuttosto facile da ripetere, un batterista alle prime armi lo rifà. Però, come tutti i grandi maestri, la sua semplicità deriva da una grande capacità di elaborare la complessità, no? Perché semplificare lo si sa fare se si è capaci di avere tanta carne al fuoco, e poi dopo piano piano si lavora per sottrazione. Quindi, anche se tecnicamente è facile ripetere, non è per niente facile ripeterlo con quelle intenzioni lì, con quella musicalità lì. Comunque sia, io vi faccio ascoltare altri brani dove invece il nostro Ian Paice è decisamente un come dire, davvero un ciclone, no? Una tempesta dietro i tamburi. Allora, il primo brano, giusto per farsi dare del tu, anzi, facciamo così, come ho fatto prima che avevo selezionato un pezzettino, vi faccio ascoltare un pezzettino anche di Ian Paice per capire un po' quale può essere la differenza con John Bonham. Se vi ricordate, abbiamo ascoltato quei piccoli break fatti da Bonham con la cassa, adesso ascoltiamo praticamente la stessa cosa fatta alla maniera di Ian Paice. Provate a sentire un po' se si riesce a cogliere questa differenza. Lui usa, ho stoppato la base così mi spiego meglio, lui usa le figure di cassa più o meno nello stesso modo, quindi a terzine, ma spostando gli accenti con molta più velocità, ma anche con molta più ricchezza di colpi. Non c'è solo la cassa, ma ci sono anche i tom. Provate ad ascoltare. Arriva il break, eh? Ecco, non so se questo break si è riusciti a a cogliere. Insomma, lui fa delle figure di cassa molto, molto veloci, ma non hanno quella essenzialità del Bonham, che lascia molto respiro al suo drumming. Ian Pace è uno che invece non lascia quasi respiro alla batteria, è veramente un turbine costante di suoni, no? Che si inseguono tutti perfetti, tutti esattamente al loro posto, calibrati, però non gli dà respiro. Allora, ascoltiamoci per così tutto il pezzo da cui avevo preso questo estratto, che è una roba allucinante. Si intitola Fireball. Beccatevi anche semplicemente dall'intro, guarda, sfumo un attimo perché l'intro di questo brano va capito tutto. Senti cosa fa. Pronti? Allora, questo cembalino finale è una roba orrenda, io l'avrei tolto immediatamente in fase di mixaggio. Comunque, perlomeno in questo brano abbiamo avuto un piccolo assaggio di quell'altro alieno che si chiamava John Lord con Lemon, che ha fatto quel mini assolo di 30 secondi da staccarsi le braccia. A proposito, se mi portate un altro paio di bacchette, perché le mie le ho appena stroncate dopo che ho sentito questo brano, perché ti viene voglia di smettere di suonare, ad altri viene voglia di insistere, a me viene voglia di smettere perché dopo tanti anni ancora non sono capace di fare ste robe qua. Amen. Comunque avete sentito questo drumming possente, no? Presentissimo, senza respiro davvero, che va come una lippa, viene da dire. E adesso però che cosa ascoltiamo? Ascoltiamo ancora un altro aspetto dello Ian Pace, che è quello più importante. Praticamente Pace è un batterista che si è ispirato molto ai grandi jazzisti, ma si è ispirato tanto ai grandi jazzisti, anzi lui stesso si definiva un batterista a dire come suonerebbe un jazzista, come suonerebbe il rock. Infatti la cosa più particolare di Ian Paice è lo swing. Lui ha questo modo di suonare la batteria che ricorda davvero tanto l'andamento del jazz. Lo swing, ve lo imito come sempre, tanto prima o poi un giorno mi prenderò i campioni, ma finché non li ho faccio da solo. E fa più o meno così: tam tam ta tam tam ta tam tam ta tam tam ta ta, no? Giusto? Chiaramente va accentato, ma insomma ci sono delle regoline. Ma insomma, questo è l'andamento dello swing, quello che più o meno si intende per uno standard jazz, diciamo così. Lui questo modo di portare il tempo con questa piccola sottrazione tam tam ta tam tam ta tam la riporta pari pari all'interno del rock, suonandolo alla sua maniera, quindi con questa potenza, con questa velocità, ma con questo appunto feeling swingoso, jazzistico. Lo ascoltiamo perfettamente in questo brano che si chiama Pictures of Home. Anche qui c'è un'introduzione che levatevi il cappello tutti. La metto ancora una volta leggermente da passo un attimo a silenzio perché va assaporata goccia dopo goccia. Allora, Pictures of Home, ascoltiamoci lo swing di Ian Paice. Tanto io vado a piangere 2 minuti, eh? Cheering my body. vabbè, senti qua. Questo è Ian Pace, questo è lo swing rock, questo è la potenza sul rullante, questo è un maestro di groove, questo è un batterista mostruoso che bisogna solo ammirare e venerare. Anzi, siccome Ian Pace è ancora bello che attivo, gira tutto il mondo suonando, viene spesso in Italia, tiene clinics, non Kleenex, Kleenex, cioè incontri didattici, io vi consiglio, anche se non siete batteristi e vi capitasse l'occasione, di andare a sentirvelo, perché veramente è un'esperienza incredibile vedere suonare un gigante come lui che ha ancora voglia di suonare, perché lui giustamente non fa mistero, dice: io 2 lire le ho messe via, ragazzi, però mi piace talmente tanto suonare che vengo in giro, fa lezioni nelle scuole, nei paesi, si diverte proprio un sacco, è uno che ama quello che fa. Grande Ian Pace, viva i batteristi come te. Quindi voglio fare un piccolo gioco, ecco, mi è venuto in mente prima e ho trovato i due brani, per così, per concludere questo piccolo confronto stilistico fra Bonham e Pace, vi faccio ascoltare questa doppia, come dire, esibizione di grandi assoli. John Bonham è il, credo, vada a memoria, io non sono un esperto, poi se sarò smentito, ahimè, farò mea culpa, ma insomma, così a sentimento mio, mi sembra che sia il primo che ha registrato un assolo di batteria in un disco da studio. La canzone è famosissima, è naturalmente Moby Dick, e lui suona questo pezzo pauroso, e ascoltiamolo al volo, vi faccio sentire quali sono le differenze di stile fra l'uno e l'altro. Questo è buono. Senti già intanto questo ritmo costruito sul campanaccio, veramente notevole. Gli amici suonano, io vi porto avanti e vi dico già, provate a concentrarvi un attimo su quello che farà durante l'assolo, perché Bonham è un batterista che ricerca molto la musicalità, quindi quando lui suona cerca proprio un fraseggio quasi melodico con i tamburi, sono tamburi ma ci costruisce sopra una melodia. Attenzione, arriva. Sta usando le mani. Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, qui stava usando le mani, poi passerà le bacchette e farà meraviglie ancora più roboanti. Naturalmente, questo è il suo pezzo più famoso. Dal vivo l'assolo durava dai 5 ai 500 minuti, a seconda di come girano le serate. Ma insomma, era uno dei pochissimi capace di strappare degli applausi enormi per degli assoli di batteria, perché veramente riesce a inchiodarti, è magnetico, ha questa sua musicalità estrema. L'altro brano invece è The Mule, il mulo dei Deep Purple. Ho scelto la versione live, quella di Made in Japan, perché quella studio non mi piace neanche un po'. La faccio intanto partire e così intanto comunichiamo. Ecco, è partito, va il ragazzo qua. Qual è la differenza che volevo sottolineare? Praticamente la differenza sta tutta nel fatto che mentre Bonham lavora molto sulla musicalità e, come avevo detto all'inizio, con tante pause nel suo drumming, quindi per lui i silenzi sono uguali ai suoni, Ian Pace ci dà una dimostrazione non tanto di musicalità, comunque, che c'è dentro, ma quanto di grandissima tecnica e padronanza proprio dello strumento bacchetta, Quindi proviamo a cogliere questa differenza, poi mi direte se sono riuscito a spiegarmi oppure no, perché comunque è facilissimo. Adesso qua cantano anche, vabbè. È il tuo momento. Avanti così per altri 9 minuti con 17.463 note sul rullante. Insomma, questo è quel mostro di Ian Paice. Ecco, queste sono due batteristi assolutamente di riferimento, che suonano praticamente lo stesso genere musicale e che sono praticamente coetanei, coevi. I dischi escono pressa poco, a distanza di pochissimo tempo di l'uno dall'altro, uno o due anni, ma con due stili completamente e profondamente diversi. Chiudiamo questa rassegna di grandi assi, cioè chiudiamo, ma che chiudiamo? Qua si apre un mondo, si apre un universo col terzo dei grandi che ho scelto di farvi ascoltare oggi, che è Keith Moon. Keith Moon è stato, via, al di là delle sue intemperanze caratteriali, e sto edulcorando di molto la pillola perché era un pazzo, devastava tutto, era autolesionista, ma Keith Moon è stato, come dire, il Jimi Hendrix della batteria. Ma di più, è stato il Jackson Pollock, ecco, come Pollock è stato in pittura, Keith Moon è stato sulla musica, perché il suo stile è assolutamente unico, irripetibile, per quanto fonte di ispirazione per chiunque. Qualsiasi batterista ti dirà Keith Moon è fra i più grandi in assoluto, ma il suo stile è interamente basato sulla creatività, sull'espressione, non so neanche come definirlo. Lui suona un'altra cosa, lui non porta il ritmo, lui crea, colora, compone. Allora, il primo ascoltiamolo subito, ascoltiamo questo brano qua, uno dei miei preferiti, niente, tratto da quel capolavoro che è Tommy. Questo è Pinball Wizard, ascoltiamo che cosa fa lui intanto, mentre va l'introduzione ve la racconto un po' meglio. Praticamente Keith Moon a un certo punto ha addirittura tolto il Charleston dal set, perché lui usava soltanto i piatti, per dire quanto è poco propenso a portare il tempo in maniera ortodossa, diciamo banale, comune a tutti gli altri batteristi. No, lui reinventa la musica, ricrea altra musica con la sua batteria. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf dumb blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. That deaf dumb blind kid sure plays a mean pinball. He Allora, per farvi capire un po' meglio lo stile di questo batterista spettacolare, tra l'altro era anche proprio bello da vedere, nel senso che era altamente coreografico, lui si era ispirato a un grande jazzista anche lui, che si chiama Gene Krupa, che faceva dei numeri un po' funambolici sulla batteria. Keith Moon lo prende, lo esaspera. Ah, avete presente, quelli magari della mia generazione, i Muppets? C'era il pupazzo che suonava la batteria, Animal, no? Animal, ecco, praticamente Animal è ispirato a Keith Moon, alle stesse mosse di Keith Moon, e come lui finisce ogni suo concerto sfasciando la batteria, prendendola a calci. Vi voglio far sentire una cosettina, come ho giocato prima, ho trovato una piccola chicca, sentite un po', questa è la traccia solo di batteria del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Sentitevi se non sembra un pazzo sentito da sola isolata, eh? Senti che cosa fa Keith Moon. A sentirlo da solo sembra un pazzo che pesta delle cose, invece questo è un batterista fra i più grandi del mondo, perché questo suo stile assolutamente espressionista, lo definirei, no? In maniera assolutamente estemporanea, creativa, poi all'interno della musica degli U funzionava perfettamente, avete sentito Pinball Wizard, e questa è la sua traccia originale, non è stata ritoccata minimamente. Questo è lo stile unico e per questo inimitabile di Keith Moon, perché è solo suo, è una cosa che lui sentiva in testa e riusciva a riprodurla così, senza, se vuoi, una roba che è anche difficile da spiegare, insomma è abbastanza fuori di testa, fuori di logica. Però senti quest'altro pezzo che a me fa impazzire, dove lui praticamente crea una cosa che è sospesa. Il pezzo si intitola I Can See Four Miles. Qua praticamente non anche qua non porta il ritmo, ricama. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play, never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles and miles and. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say, that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. E questo era Keith Moon, il grandissimo Keith Moon, I Can See For Miles. Ecco, questo è un altro brano di quelli dove il ritmo praticamente è presente, perché non si può dire che non ci sia ritmo, che non ci sia groove, ma non c'è un ritmo, come dire, canonico, no? Quello che si immagina Cassa, Charleston e Rullante, no? Lui reinventa, esprime se stesso in questo modo assolutamente unico e totalmente geniale di suonare la batteria. Quindi ci ha mostrato un altro aspetto ancora di che cos'è la percussione, di cosa si può fare con i suoni di una batteria. Allora siamo, ahimè, purtroppo giunti alla fine anche di questa puntata. Io sono felicissimo di avervi raccontato qualche cosa di questi tre grandi giganti, sono sicuro di non avervi detto nemmeno il 20% di quello che avrei voluto e sicuramente nemmeno il 50% di quello che avrei potuto. Però spero di avervi, come dire, messo un piccolo tarlo, una piccola curiosità, una piccola voglia, e andate a cercarvi tutto quello che loro hanno fatto, perché sulla rete, insomma, in rete si trova un sacco di materiale. Sono tre mostri davvero e soprattutto le loro discografie sono qualche cosa di riferimento. In ogni caso, prima di concludere facciamo un piccolo gioco di parole. Abbiamo l'ultima canzone che ho scelto, naturalmente sempre degli Who. Abbiamo ascoltato il drumming rock perfetto di John Bonham, abbiamo ascoltato il rock swingeggiante di Ian Paice e abbiamo ascoltato la geniale creatività di Keith Moon. A questo punto, in ossequio alle parole di John Bonham, che diceva: siate voi stessi, tu batterista chi sei? Senti che aggancio che ho trovato. Grazie per essere stati con me, grazie della compagnia. Ci sentiamo la settimana prossima. Faremo una puntata specialissima dedicata ad altri grandi batteristi, tre o quattro, adesso vediamo cosa riusciamo a trovare. La chiameremo Itamarri. Grazie, ciao, Into the Groove.